Magdalena. Alleluia. Papa Santa Nana. Magdalena. Alleluia. Kinga de fiaduna. Lena la fido dunia. Kinga mai fiaduna. Lena la fido dunia. Modi yalla modi bur. Modi khel muselmi. Modi yalla modi bur. Modi khel muselmi. Papa Santa Nana. Magdalena. Alleluia. Papa Santa Nana. Magdalena. Alleluia. Yesu minga maeji aduna. Kena la vida dunia. Dena jamanta bagi. Musala aduna. Modi yalla modi bur. Modi khel muselmi. Modi yalla modi bur. Modi khel muselmi. Papa Santa Nana. Magdalena. Alleluia. Papa Santa Nana. Magdalena. Alleluia. Yesu minga maeji aduna. Kena la vida dunia. Mana bai drona na bai. Modi khel muselmi. Modi yalla modi bur. Modi khel muselmi. Modi yalla modi bur. Selmi, Papa Santa Nana, Magdalena, Alleluia. Papa Santa Nana, Magdalena, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Alleluia. Amen.